Teresa Manganiello, una contadina maestra di vita. Prefazione. L'intento di questo libro è di narrare la vita di una giovane contadina dell'Irpinia, vissuta nella seconda metà del secolo scorso. Chi si accinge a narrarla è ben consapevole che sul labbro di più di qualcuno affiorirà forse il sorrisetto sardonico e di mala celata commiserazione. Perché perdere tempo e fatica per narrare una vita che non può interessare alla gente di oggi? A chi infatti può interessar di conoscere la vicenda esistenziale di una ragazza di campagna, per di più analfabeta e lontana, molto lontana, dallo stile di vita e dalla sensibilità e dalla cultura dei nostri giorni? Chi sta iniziando a scrivere si è posto già più volte questi interrogativi, ma si è convinto che essi siano più frutto di prevenzioni che di serie motivazioni. Poiché lo scrivente conosce abbastanza approfonditamente la storia personale della protagonista, del contesto socioculturale in cui visse e dello stile straordinariamente caratteristico della sua condotta, è convinto che la vicenda personale di questa giovane del meridione, lungi dal rappresentare una sorta di rottame storico da tenere sepolta nel cimitero del passato, meriti di essere fatta conoscere alla gente di oggi. È chiaro comunque che il presente libro è inevitabilmente destinato a suscitare l'interesse e la curiosità, e si spera anche l'amore di quei lettori i quali abbiano il desiderio di comprendere il messaggio che dalla giovane Teresa Manganiello si sprigiona e che può raggiungere anche la gente di oggi. Il lettore avrà subito l'opportunità di constatare che la storia che ci si accinge a narrare e a presentare e diciamo pure ad interpretare non è per nulla banale e priva di attrazione come potrebbe apparire a prima vista. Essa è al contrario ricca di suggestioni e di sorprese ed è anche capace di stimolare interesse e consensi, suscitare sì sconcerto, ma anche stupore e persino fascino. E dicendo storia, si intende precisamente la narrazione della sua vita in piena aderenza alle fonti storiche e alla tradizione costante che dalla morte della protagonista nel 1876 ad oggi si è mantenuta e trasmessa inalterata. Sebbene la narrazione assuma volutamente un'andatura descrittiva ed anche all'occasione colorativa, chi scrive dà la garanzia di fondatezza e di veridicità storica di quanto espone. L'autore sempre si richiama a fonti documentali sicure, si basa su documentazione ineccepibile, su scritti biografici di testimoni oculari attendibilissimi, su testimonianze orali e scritte di persone di assoluta affidabilità. Il lettore verrà gradatamente a conoscenza dei quasi 28 anni di vita della contadina Teresa Manganiello, non visti in se stessi e nella loro nudità cronografica, e come avulsi dal mondo, ma incastonati e incorniciati nel suo ambiente nativo e contemporaneo, nelle evenienze sociali, storiche, culturali e religiose del suo tempo e della sua terra. Senza che, per l'altro, questo libro prenda ad essere un'opera scientifica. In tal modo, la vita di questa giovane di Montefusco, provincia d'Avellino, arcidiocesi di Benevento, si snoda parallelamente alla storia che fu contemporanea e che ebbe in lei una risonanza personale interiore e profonda, e pertanto offre anche lo spaccato di una posizione di società e di ambiente locale, quello irpino-sannitico, che può rappresentare un punto di interesse culturale per la conoscenza di una zona del meridione d'Italia nella seconda metà dell'Ottocento. La vicenda personale di Teresa Manganiello, pervasa da fatti e situazioni di natura sociale, storica, politica, culturale, si qualifica soprattutto, anzi, essenzialmente, per il suo snodarsi al di sopra e al di fuori delle contingenze umane del suo tempo. Nella sua vita, il tempo fu esclusivamente un aggancio alla eternità. E lo spazio e la terra furono sì teatro di drammi e di tragedie che, immani e anche specialmente, un luogo di passaggio ed anche dimora di Dio, mentre il cielo fu sempre l'unico zenith della sua esistenza. Se chi scrive riuscirà in questo libro a dare consistenza ed evidenza al linguaggio singolarmente ricco ed elevato dei fatti e della vita di questa contadina di Dio, allora sì, non avrà certamente perduto il suo tempo e la sua fatica non sarà stata vana.